suona drammatica. Sembra la zona più buia di un luna park. Con te era più romantica la ruota panoramica. Mi piaceva anche avere paura. C'è un vento che mi porterà, mi scioglierà le tracce di una via rosca. Come di Piaf non mi rimane niente. C'ero io, c'eri tu. Così, a marcar, comico e tragico. Cosa eri tu? Non lo so, ma un po' mi avevi illusa. Sai, però forse in un film, io con te non mi ci immagino. E sembra così, demode, però era magico. Cosa sei tu? Un déjà vu, mi sono solo illusa. A marcar, una lama mi accarezza la consapevolezza che indietro ci ritornerò. E mi faccio tenerezza, un velo di tristezza è l'unico vestito che ho. C'è un vento che mi porterà, mi scioglierà le tracce di una via rosca. Come di Piaf non mi rimane niente. C'ero io, c'eri tu. Una lacrima mi scende, anche se ti scorderò. In un club il sabato è tutto così. A marcar, comico e tragico. Anche se ti scorderò, è tutto così, è un mercol. Cosa eri tu? Non lo so, ma un po' mi avevi.